Europa 24. Grazie Simone, un saluto a tutti voi cari ascoltatori. Oggi alle 14.01 di questo giovedì parliamo di vertice europeo, vertice di fine anno. Allora ci colleghiamo subito con Bruxelles, con Sergio Nava innanzitutto. Sergio, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, molti temi sul tavolo, partendo naturalmente dal grande tema dell'unione bancaria. Prego. Ecco, io mi trovo proprio fuori dall'esterno del Justus Lipsius, l'edificio che ospita il Consiglio Europeo. In questi minuti cominceranno ad arrivare qui i 28 leader, tra cui anche il premier italiano Enrico Letta. Come dicevi tu, unione bancaria in primo piano, nella notte l'accordo che tra poco approfondiremo. Bisogna però segnalare che c'è già un no, ed è il no dell'Europarlamento. Il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz ha giudicato come cattivo l'accordo trovato nella notte. Tra gli altri temi si comincerà a parlare di difesa comune europea, pochi i progressi in realtà attesi su piccoli progetti, soprattutto progetti innovativi, anche perché c'è un no della Gran Bretagna e anche della Germania a una difesa comune europea. L'unica veramente a sostenerla, anche per questioni di budget, è la Francia. Nel tardo pomeriggio, nella sera, si tornerà a parlare di unione bancaria per approvare anche da parte dei 28 leader l'accordo raggiunto nella notte, ma soprattutto si parlerà di questi nuovi accordi contrattuali che la Germania vorrebbe introdurre a partire da giugno dell'anno prossimo per vincolare le riforme strutturali dei paesi in crisi a degli aiuti, possibilmente a un contratto di solidarietà, potremmo dire. Allora c'è molta tensione su questo, non tutti sono d'accordo, anche perché in qualche modo si andrebbe a interferire pesantemente nella sovranità nazionale. Domani poi il vertice si concluderà, domani mattina, parlando di immigrazione. Allargamento, ci sarà appunto la conferma che la Serbia inizierà a gennaio i negoziati e l'Albania invece a giugno, e la politica estera con l'Ucraina in primo piano e anche l'energia. Da Bruxelles è tutto. Ecco Sergio, magari torniamo con te tra un istante, resta per favore con noi, magari approfondiamo anche gli echi dell'effetto appunto del fallimento della trattativa con l'Ucraina. Però adesso con Enrico Brivio invece gli chiedo, intanto lo saluto, buongiorno Enrico. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, a te chiedo una cosa non facile, però di spiegarci in parole semplici il senso di questa tappa verso l'unione bancaria. Sì, speriamo di riuscirci, perché forse anche Mario Draghi e la BCE avrebbero amato un meccanismo un po' più semplice, però è un importante risultato, perché con questo meccanismo per il salvataggio delle banche si è costruito il terzo pilastro dell'unione bancaria, che come sai era... Finora si era stabilito una garanzia comune per i prestiti, si era stabilita una vigilanza comune soprattutto da parte della BCE, ed ora con questo meccanismo che dovrà scattare in caso di crisi di una grande banca, si parla soprattutto delle 130 grandi banche europee, si va sempre più verso un'unione bancaria. Chiaramente non sarà uno scatto immediato, è un processo progressivo, nel senso che si creerà un fondo nell'arco di 10 anni del valore di 55 miliardi per appunto intervenire nelle situazioni di crisi. E proprio cosa fare in questo periodo intermedio di transizione è stato l'oggetto del negoziato, con la Germania molto preoccupata che non fossero poi alla fine i contribuenti tedeschi a dover pagare gran parte di un intervento, e un altro schieramento con Italia, Banca Centrale Europea e Commissione Europea molto preoccupato invece di avere un meccanismo efficiente per rassicurare i mercati e per spezzare ogni spirale di rimando della crisi, come avvenne insomma a suo tempo con il caso Lehman Brothers. Enrico, una domanda: da oggi Mario Draghi, e con questo voglio dire il capo della BCE, è un uomo davvero più forte? Ma in qualche senso sì, diciamo che si è arrivati a un onorevole compromesso, nel senso che da parte tedesca c'erano delle preoccupazioni di cui si è tenuto conto, però si è anche messo in piedi, come voleva Draghi, un meccanismo di emergenza che nel giro di 24 ore, nel caso ci fosse una crisi molto seria, quindi nel giro di un weekend, può intervenire con una rete che prevede delle garanzie statali solo temporanee, diciamo proprio per me in conto i testi, però c'è una rete, un paracadute come voleva Mario Draghi. Grazie Enrico Brivio, insomma sembra che ancora una volta l'Unione Europea avanza, il suo fronte più avanzato sia inevitabilmente quello sul fronte dell'economia. Volevo tornare con una battuta con Sergio Nava, dicevamo effetto Kiev-Mosca, c'è qualche eco su questa settimana turbolenta a Bruxelles? Ma diciamo che questo è un tema relegato poi alle discussioni finali di domani. Possiamo dire che tendenzialmente quello che con ogni probabilità i 28 leader diranno sarà semplicemente che si mantiene aperta la porta a Kiev per un accordo di partnership, come era già sul tavolo all'ultimo vertice. Di fatto una partita a scacchi, al momento l'ha vinta la Russia, però chiaramente l'Europa tiene la porta aperta e si vedrà. Grazie a Sergio Nava e ad Enrico Brivio in diretta con noi da Bruxelles. Europa 24 si conclude qui, torniamo naturalmente domani intorno alle 14. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.